Questo è un podcast di Rivista Militare. 80 anni da El Alamein, di Carlo De Risio. Capitolo 1. Malta o Suez? El Alamein, in arabo, due bandiere. Nel 1942 c'era soltanto una stazioncina lungo la ferrovia che dal delta del Nilo raggiungeva il confine con la Libia e che gli inglesi avevano prolungato fino in prossimità di Tobruk. Situata sul Golfo degli Arabi, la località, distante 180 km da Marsa Matruh e 105 da Alessandria, era soltanto un nome sulla carta geografica. Nessuno poteva immaginare che uomini in armi sotto una dozzina di bandiere, altro che le due bandiere del nome, si sarebbero dati battaglia in quel posto desolato. Gli italo-tedeschi, decisi a raggiungere Alessandria, il Cairo e Suez, i britannici, le truppe del Commonwealth, i francesi, altrettanto decisi a sbarrare il passo ai primi. Nel 1940, in previsione dell'entrata in guerra dell'Italia e di una avanzata della nostra decima armata in direzione dell'Egitto, il comandante britannico del Medio Oriente, generale Archibald Wavell, e il comandante dell'Armée d'Orient francese, generale Maxime Weygand, compirono una ricognizione a El Alamein, avendo valutato l'importanza della posizione difficilmente aggirabile da sud. Tanto è vero che quando gli italiani raggiunsero El Alamein, scoprirono che alcune opere in calcestruzzo, apprestate dai britannici, recavano la data del 1940. Segno evidente che le difese non erano state improvvisate. Dunque, una posizione difficilmente aggirabile. Infatti, a poco meno di 60 km dalla costa, il deserto, rotto qua e là da piccoli rilievi che diventarono di grande importanza tattica e sovrastato a sud dai 217 metri della piramide naturale rocciosa di Karet El Imemat, piomba verso la depressione di El Kattara, 134 metri sotto il livello del mare, costellata di sabbie mobili e terreno cedevole. Rappresenta una curiosità che verso la fine degli anni 20 ingegneri tedeschi avevano progettato di immettere, con condotte forzate, l'acqua del Mediterraneo, depurata con un avveniristico sistema di desalinizzazione, nella depressione per ricavarne un enorme bacino e soprattutto energia elettrica. Fin da allora i tecnici ammonivano a non turbare il corso del Nilo con una grande diga all'altezza di Aswan, cosa che invece hanno fatto i sovietici negli anni 60, con infiniti guasti per il regime delle acque del grande fiume e per le millenarie inondazioni, che ritirandosi lasciavano un limo fecondatore, per cui le colture hanno subito danni incalcolabili. Ma questa è appunto soltanto una curiosità. Un'altra curiosità, questa molto importante, è che nella zona di El Alamein si trovavano le uniche sorgenti di acqua dolce di quel tratto di deserto occidentale egiziano. Circostanza confermata dall'allora colonnello di Stato Maggiore, Fritz Bayerlein, uno dei principali collaboratori di Rommel. Non c'è libro sulla guerra in Africa settentrionale che non accenni alla intransitabile depressione di El Kattara. Ma sulla assoluta interpretazione di questo assunto sussiste almeno qualche dubbio. Desmond Young, uno dei biografi di Rommel, incline alla agiografia sulla volpe del deserto quanto a malevoli apprezzamenti sui combattenti italiani, scrive che Randall Plunkett, ufficiale della cavalleria Guide, si attirò le antipatie dell'ufficio operativo del Cairo allorché, durante la ritirata, riuscì a portare i suoi mezzi corazzati attraverso quelle sabbie mobili partendo dall'oasi di Siwa. Un dubbio ancora più significativo sulla intransitabilità della depressione sorge scorrendo le annotazioni di Rommel sulla campagna in Nord Africa, poiché sotto la data del 29 ottobre 1942, durante la grande battaglia di El Alamein, il feldmaresciallo scrive: «Ricevette ad un tratto l'allarmante notizia che il nemico, attraversata con due divisioni la depressione di El Kattara, aveva già raggiunto la regione 100 km a sud di Marsa Matruh. Eravamo oltremodo costernati perché non avevamo alcuna possibilità di difesa. Parecchie unità che si trovavano dietro il fronte vennero subito inviate nella zona minacciata. A nostro sollievo, però, la mattina del 30 ottobre, questa notizia, trasmessaci dal Comando Supremo, risultò falsa. Ora, se Rommel si preoccupò per l'aggiramento da parte di due divisioni britanniche attraverso la depressione, questo significa che la riteneva possibile. Peraltro, durante l'estate del 1942, con gli schieramenti contrapposti fermi a El Alamein, Rommel si spinse più volte sull'orrida zona, facendo sospettare ai suoi ufficiali chissà quale piano ardito per lanciare un'unità motorizzata attraverso la infida distesa di El Kattara. È un punto fermo, tuttavia, che una manovra con l'impiego di grandi unità meccanizzate non era possibile attraverso la depressione, che presentava una certa analogia con quella di Mars El Brega, nella Sirtica, al confine tra Cirenaica e Tripolitania, il cui fianco verso l'interno è cosparso di paludi salmastre e sabbia cedevole. Non è un caso che per due volte, nel febbraio del 1941 e nel gennaio del 1942, le offensive britanniche si esaurirono proprio davanti a Mars El Brega, al punto che i britannici, con il loro innato humor, avevano definito la gita annuale quel loro spingersi fino alla Sirtica senza riuscire ad avanzare oltre. Per comprendere il dramma, perché tale fu, dell'avanzata italo-tedesca a El Alamein e le successive battaglie combattutevi, occorre rifarsi alle decisioni prese nella primavera del 1942. Il 29 e 30 aprile 1942, a Klesheim, in occasione di uno dei loro periodici incontri, Hitler e Mussolini, assistiti dai rispettivi stati maggiori, avevano deciso di risolvere la partita nel Mediterraneo e nel Nord Africa. Malta, pesantemente bombardata dalla seconda flotta aerea di Kesterling, che aveva assunto la direzione del Comando Forze Sud il 28 novembre 1941 e dall'aeronautica italiana, aveva cessato di esistere come base navale e gli stessi reparti della RAF che vi erano dislocati avevano subito forti perdite. Ciò aveva consentito di far passare per Tripoli e Bengasi un convoglio italiano dopo l'altro, con importanti rinforzi per l'armata corazzata italo-tedesca. Il capo di Stato Maggiore, generale italiano, generale, poi maresciallo, Ugo Cavaliere, caldeggiava il piano di invasione di Malta, designato dagli italiani con il nome convenzionale di Operazione C3 e dai tedeschi col nome altrettanto convenzionale di Operazione Hercules. Un vero e proprio corpo di spedizione si stava preparando per l'impresa. Non meno di 7 divisioni italiane erano state precettate per l'Operazione C3, comprese molte unità speciali. La divisione paracadutisti Folgore, il reggimento San Marco, un reggimento speciale di camicie nere e poi arditi, rocciatori, nuotatori paracadutisti, assaltatori delle varie armi. I tedeschi avrebbero partecipato con una loro divisione paracadutisti, con mezzi e carri armati anfibi, oltre che con centinaia di aerei di tutti i tipi. Per agevolare l'operazione contro Malta e isolare ancora di più l'arcipelago assediato, era essenziale scacciare i britannici dall'intera Cirenaica e dalla Marmarica, allontanando la minaccia rappresentata dai campi d'aviazione della RAF e conquistando soprattutto la piazzaforte di Tobruk. Pertanto, sempre in occasione dell'incontro di Klesheim, venne stabilito che la prima mossa sarebbe spettata all'armata corazzata italo-tedesca, Operazione Aida. Rommel avrebbe attaccato a fine maggio, con l'obiettivo di battere le forze britanniche e di attaccare e conquistare Tobruk. Dopodiché le truppe dell'asse si sarebbero attestate sulla linea di Al-Fayyah Sollum, al confine libico-egiziano, consentendo ai reparti dell'aeronautica di essere ritirati e riorganizzati per la successiva operazione contro Malta. Soltanto dopo si poteva pensare a un'offensiva contro l'Egitto. Aida ebbe inizio il 26 maggio alle 14, un'ora insolita per un'offensiva. Alla finta iniziale di Rommel lungo la costa, affidata alle divisioni di fanteria italiane del 10° e 21° Corpo d'Armata, fece seguito l'avvicinamento notturno, da sud, dell'intera massa corazzata e meccanizzata, oltre 10.000 mezzi, che si mosse dopo la parola convenzionale Venezia. L'ottava armata, comandata dal generale Ricci, era infatti attestata dalla posizione costiera di Ain el Ghazala alla località di Bir Hakeim, 64 km più a sud, nel deserto, al riparo di estesi campi minati. esula da questa trattazione ricostruire una fase dopo l'altra la battaglia che infuriò dal 26 maggio al 21 giugno, quando Tobruk cadde di schianto. Ma è essenziale precisare che la battaglia rapida e manovrata, immaginata da Rommel, si trasformò in una battaglia di usura. Già il giorno 27 maggio, un terzo dei carri tedeschi era stato messo fuori combattimento, a causa dell'impiego massiccio da parte dei britannici di carri statunitensi Grant, con cannone da 75 mm in casamatta e un cannone da 37 in torretta girevole. Sensibili e man mano crescenti anche le perdite delle divisioni italiane, soprattutto dell'Ariete corazzata e della Trieste motorizzata, 20° corpo d'armata, che facevano parte della massa di manovra. A questo riguardo, c'è da dire che i britannici, quando Rommel si trovò in difficoltà e fu costretto ad arretrare per agevolare l'afflusso dei rifornimenti, attaccarono decisamente il 20° corpo italiano e furono respinti con gravi perdite. Non era la prima volta e non sarebbe stata l'ultima che i britannici prendevano di mira le unità italiane nella presunzione di un loro facile cedimento. Evidentemente non era stata sufficiente l'esperienza fatta il 19 novembre 1941, inizio dell'operazione Crusader, quando a Bir el-Gobi la 22esima brigata corazzata britannica, dopo aver individuate le posizioni dell'Ariete, aveva caricato come se si fosse trattato della caccia alla volpe, perdendo più di 50 carri in poco tempo. Stesso duro pedaggio avevano pagato, subito dopo, britannici e indiani, sempre a Bir el-Gobi, quando si erano lanciati contro le posizioni tenute dai battaglioni di giovani fascisti, che respinsero i carri britannici con pochi pezzi contro carri da 47-32. Ma torniamo agli eventi del giugno 1942. Sia pure con notevole dispendio di mezzi e di uomini, l'armata italo-tedesca cominciò a sbriciolare l'intero dispositivo britannico. Cadde la posizione mediana di Gottelualeb, cadde Bittakeim, strenuamente difesa dalla brigata della Francia libera del generale Koenig, cadde infine la posizione di Ain el-Ghazala. Quanto alle forze corazzate britanniche della settima e prima divisione, per non parlare delle brigate autonome, esse subirono una pesante e conclusiva sconfitta nella località del deserto enfaticamente denominata dai britannici Knight's Bridge, Ponte dei Cavalieri. L'ottava armata inglese aveva iniziato la battaglia con 843 carri armati più altri 145 in riserva, che includevano 242 Grant e 219 Stuart di fabbricazione americana, a riprova del crescente peso militare e industriale degli Stati Uniti anche nel teatro nordafricano. L'armata corazzata italo-tedesca era invece entrata in battaglia con 560 carri, 228 dei quali italiani, e durante le operazioni ricevette l'apporto di altri 76 carri tedeschi e della divisione corazzata italiana Littorio, sull'efficienza della quale torneremo più avanti. Innegabile dunque la superiorità numerica delle forze corazzate dell'ottava armata, che vantava anche un maggior numero di automezzi, cannoni, autoblinde, mentre l'organico delle divisioni britanniche era anch'esso immancabilmente superiore a quello delle divisioni italiane e tedesche. Parimenti più numerosi i gruppi aerei della Desert Air Force, anche se l'aeronautica italiana e la Luftwaffe avevano concentrato in Libia 700 aerei di tutti i tipi, che avevano avuto una parte importante fin dall'inizio dell'offensiva. Le unità corazzate dell'asse, abilmente manovrate, avevano ottenuto il risultato di falcidiare la massa corazzata avversaria, al punto che dopo la battaglia di carri di Knight's Bridge, l'ottava armata si trovò in condizione di inferiorità. Era venuto il turno di Tobruk, che investita da terra e dal cielo, capitolò il 21 giugno, con più di 30.000 uomini e un immenso bottino dopo un attacco durato in tutto 24 ore. L'eco nel mondo fu enorme. La vera premessa a El Alamein è da ricercare nella repentina caduta di Tobruk, e non soltanto per ciò che l'evento produsse in campo italo-tedesco. L'ulteriore mobilitazione dell'apparato militare e industriale statunitense in favore del fronte nordafricano avvenne proprio in conseguenza della conquista della piazzaforte britannica, contro la quale Rommel si era spezzato i denti fin dall'aprile del 1941. Winston Churchill apprese la notizia della capitolazione mentre si trovava a Washington per importanti colloqui col presidente Roosevelt, scrive il premier inglese nelle memorie sul secondo conflitto mondiale, Poco dopo venne consegnato al presidente un telegramma. Egli me lo passò senza dir motto. Il telegramma diceva: Tobruk si è arresa. 25.000 uomini, in realtà 33.000, sono caduti prigionieri. Non cercai di nascondere al presidente l'emozione provata. Era un momento assai amaro. La disfatta è una cosa, la vergogna è un'altra. «Che cosa possiamo fare per aiutarvi?» chiese Roosevelt. Risposi immediatamente: «Darci tutti i carri armati Sherman che potete e spedirli nel Medio Oriente al più presto possibile». Per completare il racconto, prosegue Churchill, occorre dir subito che gli americani mantennero più di quanto avessero promesso. 300 carri armati Sherman, ancora privi del motore, e un centinaio di pezzi semoventi furono caricati su 6 delle loro navi più veloci e spediti alla volta del canale di Suez. La nave che trasportava i motori di tutti i carri armati fu affondata da un sommergibile al largo delle Bermude. Senza che noi dicessimo una parola, il presidente e Marshall fecero caricare un ugual numero di motori su un'altra nave veloce e la spedirono a raggiungere il convoglio. Al rinnovato impegno anglo-americano per impedire il crollo del fronte nordafricano, con la perdita dell'Egitto e una minaccia mortale portata alle indispensabili fonti petrolifere del Medio Oriente, Iraq e Iran, fece riscontro da parte dell'asse l'euforia dei capi, ma nessun serio impegno per rinsanguare le esauste divisioni dell'armata corazzata d'Africa. Contemporaneamente veniva accantonato il previsto attacco contro Malta, tanto è vero che il dispositivo, faticosamente messo insieme, cominciò ad essere smontato. È importante sottolineare, nella successione cronologica degli avvenimenti, che proprio mentre Tobruk capitolava, Mussolini aveva scritto a Hitler, riproponendo la priorità della conquista di Malta, decisa a Klessenheim in aprile, e sollecitando importanti forniture di nafta per la flotta italiana. Infatti, a metà giugno, la Marina italiana si era impegnata, nel bacino orientale e in quello centrale del Mediterraneo, contro due convogli britannici diretti a Malta. Su 17 mercantili che si erano mossi, fortemente scortati, da Alessandria e da Gibilterra, soltanto due avevano raggiunto l'isola assediata. Severe anche le perdite britanniche in navi da guerra, ma lo sforzo compiuto aveva esaurito le scorte di nafta della Marina italiana, scorte che era necessario ricostituire per il previsto attacco a Malta. I bagliori della vittoriosa battaglia della Marmarica e la conquista di Tobruk mandarono all'aria tutti i piani precedentemente concordati. Hitler montò sul cavallo di Orlando, contagiato dall'euforia di Rommel. Nella risposta a Mussolini, Hitler infatti scrisse: «Ordinate il proseguimento delle operazioni fino al completo annientamento delle truppe britanniche, fino a che il vostro comando e il maresciallo Rommel crederanno di poterlo fare militarmente con le loro forze». Corsivo dell'autore. Ora, è vero che a Tobruk erano stati catturati immensi depositi di carburante, materiali e viveri, ma il bottino non era di certo sufficiente per rinsanguare le divisioni italiane e tedesche che non avevano più lineamenti organici. Né, dal tono stesso della lettera di Hitler, c'era da sperare in consistenti rinforzi. La mente del cancelliere e Führer era rivolta altrove. Il 28 giugno sarebbe iniziata la grande offensiva estiva in Russia e tutte le forze corazzate sarebbero state lanciate contro il fronte meridionale, dirette verso il Caucaso e Stalingrado. Torneremo su questa mancata concentrazione delle forze dell'asse nel teatro nordafricano, ma intanto c'è da dire che un altro elemento giocò a favore dell'offensiva a fondo in Egitto. La cattura dei codici nell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma da parte del SIM, Servizio Informazioni Militare Italiano, aveva fornito una fonte di inestimabile importanza ai comandi italiani e tedeschi in Libia. I dettagliati rapporti che l'addetto militare statunitense al Cairo, colonnello Frank Bonner Fellers, inviava al War Department, furono letti, ovviamente, in quella cruciale congiuntura, perché fornivano un quadro di situazione completo delle gravi difficoltà nelle quali si dibatteva l'ottava armata britannica. Una conferma si trova in quanto scrisse nel 1958, uscendo da un riserbo che si era imposto per 16 anni, il maresciallo d'Italia Ettore Bastico, governatore generale della Libia e comandante superiore delle forze armate in Africa settentrionale. A puntellare le tesi di Rommel, si legge nei ricordi di Bastico, aveva concorso anche l'intercettazione di una comunicazione dell'addetto militare americano al Cairo che forniva il quadro della situazione inglese nello scacchiere libico-egiziano. Il rapporto, dopo un esame numerico dei mezzi britannici e di quelli dell'asse, così concludeva: Rommel potrebbe tentare l'invasione dell'Egitto dopo un breve periodo di riordinamento delle proprie unità, durante il quale l'asse potrebbe peraltro attaccare Malta in modo da assicurarci un'ininterrotta linea di rifornimenti dall'Italia alla Grecia. L'interruzione dei rifornimenti dell'asse deve potersi raggiungere, altrimenti il Medio Oriente sarà alla completa mercé di Rommel. L'esercito inglese è stato sconfitto principalmente a causa delle deficienze dei comandanti. Se Rommel ha intenzione di prendere il Delta, ora è il momento opportuno. Il podcast di Rivista Militare, 80 anni da El Alamein, vi dà appuntamento al prossimo episodio.